Che mi consigli di buono in questo ristorante? Tutto. Ma hanno una vitella che in tutta New York non la trovi. Allora vitella per me. Capito. Scusaci se ora parliamo un po' con io e Mike. Senz'altro. Mi dispiace. Lo so. Mi dispiace. Lo so. Mi dispiace. Ross.